Radio 24 presenta Il sabato del villaggio di Marta Cagnola. Buongiorno, ci siamo con il sabato pomeriggio di Radio 24, il sabato del villaggio, dove il villaggio, come sempre, il nostro villaggio globale, è questa la nostra guida per orientarci negli acquisti mentali, in tutte le nuove tendenze in fatto di musica, TV, serie TV, cinema, ma anche consumi, tecnologia, libri. Insomma, i nostri liberi consigli per il fine settimana. Di cosa parleremo in questo sabato del villaggio? Beh, con noi ci sarà uno dei cantautori rivelazione di questa stagione. Sono molto contenta di presentarvi al sabato del villaggio, Motta. I viaggi insieme ad Anna Rita D'Ambrosio e al Touring Club Italiano, scopriremo poi dove andremo insieme, tutti i libri del momento con Alessandra Tedesco, ma partiamo così. I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me. Sempre quando sentiamo questa musichina che a me piace tanto, tanto, tantissimo, significa che parliamo di moda e significa che parliamo con la nostra Giulia Crivelli. Ciao Giulia. Ciao Marta. Allora, io vi avevo promesso che avremmo fatto un aggiornamento su tutte le tendenze, perché siamo in pieni saldi, così sappiamo cosa dobbiamo comprare, quali sono gli affari da fare, cioè le cose da comprare che magari l'anno prossimo metteremo ancora, e quegli sfizi che dobbiamo proprio concederci per questa stagione estiva. Allora Giulia, che cosa ti ha colpito in questo periodo? Per cosa dobbiamo spendere i nostri soldini? Guarda, purtroppo certe cose che sono molto classiche adesso c'è questa tendenza a non metterle in saldo, quindi dedichiamoci alle cose di tendenza. Tra l'altro, la scorsa volta c'è qualche cosa di freudiano in questo, mi sono dimenticata di nominare una delle cose più di tendenza di quest'anno, che sono le t-shirt con la taschina qua davanti, che è completamente inutile perché non ci sta niente, forse una volta al pacchetto di sigarette, che era una cosa che avevo scoperto negli anni 80 quando sono andata la prima volta negli Stati Uniti, e me ne sono innamorata comprandole su tutti i siti possibili. Adesso che sono diventata di moda, un po' mi dispiace, però passeranno anche di moda come tutte le. Allora, per questo mi sono proprio dimenticata di citarle, ma in realtà qualsiasi marchio casual le ha fatte, con lo scollo a V, con lo scollo largo, a barchetta, e c'hanno queste taschine davanti, a volte a contrasto, sono molto divertenti, e a volte addirittura hanno il profilo delle maniche, soprattutto quando sono corte, con lo stesso motivo a contrasto del taschino, quindi quadretti, animali, di tutto, sono molto divertenti. Bello, mi piace. Poi anche una cosa che, anche se non è magari appunto è una tendenza di stagione, non è una cosa che poi buttiamo via l'anno prossimo. No, anche perché le t-shirt, insomma, hanno mille vite, sono come le arabe fenici, sempre rinascono. Sì, è verissimo. Io ne ho una quantità impressionante, anche perché poi mi faccio certe macchinate di lavatrice che sono una soddisfazione. Allora, tanti fogli. Tu quando leggi i giornali di moda strappi le pagine? Io strappo tutto, lo faccio anche, devo dire, con le recensioni dei libri, ed è perché è una cosa tremenda, credo che l'abbiamo una volta, deve essere capitato a tutti, andare in un negozio con il foglio e sentirsi dire: no, ma questo però non l'hanno messo in produzione, no, però questo non è ancora uscito. E quindi io faccio tutte queste prove, e le cose che vi segnalo in realtà si trovano. Quando si va col foglietto, o è troppo presto, se non è ancora stato, o è troppo tardi, che è già finito. E poi soprattutto con questo meccanismo delle grandi catene, dove ogni negozio sostanzialmente ha un suo responsabile, non è detto che scelga, perché l'offerta è enorme, di tutto quello che il marchio offre scelga la cosa che poi il giornalista invece ha scelto e ha messo sul giornale, quindi è un po' tricky. Ma in questo aiutano poi le vetrine online, dove in generale l'offerta è molto ampia, quindi io al limite ne provo un capo simile, e poi se trovo quello che volevo io online già so più o meno come mi sta e come la taglia. Allora, lì hai un qualcosa di appunti. Questa cosa è iniziata un po' con i grandi marchi, quindi Dolce Gabbana, Prada, Gucci, li abbiamo visti sulle passerelle, però come spesso succede l'idea viene un po' presa e reinterpretata. Non userei la parola copiata, perché poi in realtà sono naturalmente prodotti con qualità diverse. Ci ispiriamo. Però è l'idea di mettere qualcosa che è molto simile a un pigiama. Mia nonna sicuramente direbbe: hai addosso un pigiama, esci così in pigiama, e in realtà però hanno anche dei materiali che non sono quelli che useremmo per i pigiami. In generale la parte sopra e la parte sotto sono acquistabili separatamente. Sempre molti marchi, anche di quelli delle grandi catene dell'intimo, offrono sia il pantalone stretto che il pantalone largo, che è una sorta di gonna pantalone. Comodi sono comodi, poi magari a uno non piace l'idea, appunto, che... Allora, tutto insieme... Spezzando, hai ragione. Spezzando, forse, non so, queste camicie e pigiama sono molto carine, magari con jeans... Cosa ne pensi? Possiamo spezzarlo? Sì, assolutamente. Io userei soprattutto la parte sopra, effettivamente, perché sono con questo caldo, poi così volanti, svolazzanti, secondo me sono l'ideale. Sì, sì, ho tutto svolazzante. Io ormai metto solo cose svolazzanti. Beh, ma li vedo una cosa di super lusso, sì. Però. Perché questa sono gli smartwatch, che letteralmente, sapete, smart in inglese vuol dire intelligente, furbetto, e sono gli orologi che sanno fare molte più cose di quelli tradizionali. E uno pensa, vabbè, è un prodotto tipicamente tecnologico, e non proprio, perché adesso ci si stanno mettendo anche proprio i marchi di alta gamma, e che poi hanno deciso di chiamarli intelligent watch, perché loro non sono semplicemente smart. L'ha fatto Tag Heuer, l'ha fatto Montblanc, l'ha fatto Bulgari. Adesso martedì viene lanciato quello di Witton, che tu lo puoi vedere in anteprima. Dopo faccio una fotina, ve la posto. Costa meno di un orologio Witton, di quelli della linea di orologeria Witton. Sicuramente per un maniaco del brand, io metterei via. Ma quanti ne dobbiamo mettere via? No, non tantissimi. Meglio, naturalmente tutto è sempre relativo, però costa intorno ai 2000 euro, che per un orologio di alta gamma soprattutto per Vuitton, che con 2000 euro quasi costano più le borse ormai, quindi e poi tantissimi la tendenza, mi sono segnata, insomma, dovremmo essere orgogliosi, perché uno degli inventori della plastica, che poi ha preso anche il premio Nobel, è l'italianissimo Giulio Natta. Ecco, il trionfo della plastica quest'anno, ne abbiamo già parlato quando parlavamo di ciabattine, ma anche i gioielli, ce ne sono tantissimi, con queste anche plastiche molto nuove, e sono divertenti, perché poi naturalmente uno si getta in acqua con tutte queste cose. Mentre, ecco, un problema degli smartwatch di lusso è che la doccia la puoi fare, è sconsigliabile fare una vera e propria nuotata. Esatto. Dai, abbiamo ancora tempo per un consiglio. Un'ultima cosa, gli zainetti si sono rimpiccioliti, sì, adesso vanno molto quelli che puoi tenere, li hanno fatti in tantissimi marchi, mi vengono in mente The Bridge, Fratelli Rossetti, ma poi naturalmente anche i marchi più sportivi, Piquadro, Carpisa, che sono piccolini, sono grandi come una borsa, quindi li puoi tenere a mano oppure li puoi mettere sulle spalle. Sono come degli zainetti da bambini, però sono, innanzitutto, vabbè, a me piacciono o le cose molto piccole o quelle molto grandi, sono deliziosi, ma poi soprattutto hanno questa doppia funzione, e siccome siamo nell'epoca del ogni cosa deve avere più di una funzione, li trovo anche molto intelligenti. Guarda, questo qui te lo faccio vedere, quello che rosso, che belli, poi il rosso e il blu, le righe, mi fai subito venire voglia di mare. Che dovreste vederla Giulia con tutti i suoi ritagli, gli appunti, e queste cose della moda mi piacciono tantissimo, mi piacciono. Dobbiamo divertirci, tanto. Veramente divertiamoci con la moda. Poi sappiamo, lo ripetiamo sempre, che per l'Italia è anche molto importante dal punto di vista economico, però soprattutto deve essere un divertimento. Sì, e poi appunto possiamo spendere delle cifre favolose, possiamo spendere delle cifre piccoline, sognando di spendere delle cifre favolose, e alla fine può essere un gioco, anche concedendoci ogni tanto qualche piccola soddisfazione. Grazie a Giulia Crivelli, che come sempre poi sentite sempre a Radio 24, ma almeno al Sabato del Villaggio ci divertiamo con la sua grande passione, nonché una delle sue grandi competenze, che è quella della moda. Grazie Giulia. Grazie a te Marta, buoni saldi a tutti. Il Sabato del Villaggio. E questo è il momento del Sabato del Villaggio in cui andiamo un po' a curiosare in libreria, il momento giusto per preparare i libri per le partenze, per mettere i libri in valigia. Allora, quali sono i libri del momento? Lo chiediamo come sempre alla nostra Alessandra Tedesco. Ciao Alessandra! Ciao Marta, c'è un libro che sta andando particolarmente bene, diciamo, se ne sta parlando parecchio anche sulle spiagge italiane, anche perché il tema è, sai, di quelli un po' pruriginosi in cui tutti hanno qualcosa da dire. Mi piace, cosa? Ecco, quale? Il titolo è Divorziare con stile. Ah, ah, ok, ok. L'ha scritto Diego De Silva, pubblicato da Einaudi. È assolutamente un romanzo, non è un manuale, e torna il personaggio seriale forse più amato di De Silva, che è Vincenzo Malinconico. Vincenzo Malinconico è un avvocato di insuccesso, non lo diciamo a caso perché viene proprio definito così dal suo autore. Lavora a Napoli, è divorziato, ha due figli, lavora in un piccolo studio che lui chiama Loft, che è arredato con mobili, diciamo, di serie, ecco, giusto per non fare nomi, e si trova sempre al centro di situazioni un po' tragicomiche. Infatti questa è una commedia ironica, brillante e amara al tempo stesso. Allora, qual è il caso, anzi i casi su cui si trova a lavorare questa volta l'avvocato Malinconico? Prima c'è un caso che riguarda un suo quasi zio, non è proprio un suo zio, però insomma lui fa tutta una descrizione delle finte parentele, eccetera, eccetera, che si è fratturato il naso contro una portavetri di un tabaccaio. Ah. E questa, va bene, è una storia. Ma la storia che dà il titolo al libro, Divorziare con stile, è la storia di una sua cliente, Veronica, che deve divorziare da un celebre, questo sì, veramente celebre, avvocato, Ugo Maria Starace Tarallo. Beh, è un nome d'avvocato importante. Da avvocato importante. Lei è accusata di averlo tradito semplicemente perché ha mandato degli sms. In realtà pare che non abbia, diciamo, consumato il tradimento, ma solo per questo, insomma, il marito non vuole darle un euro sostanzialmente nella casa di divorzio. E come al solito Diego De Silva racconta uno spaccato sociale e psicologico in maniera molto, molto ironica, perché c'è questo suo personaggio, appunto dicevamo, Vincenzo Malinconico, l'avvocato, che spesso parla con se stesso, riflette quindi su casi della vita, su è quasi una commedia introspettiva, potrei dire, quindi riflette sul divorzio, poi c'è chiaramente, che è un tema che lui conosce perché lui stesso è divorziato, poi c'è a un certo punto, ci sarà anche una cena con i vecchi compagni di scuola, quasi tutti divorziati, insomma ne viene fuori uno psicodramma collettivo che diventa veramente ridicolo, insomma fa anche sorridere. Bene, mi appassiona la storia e mi incuriosisce il fatto che faccia sorridere. A chi lo consigliamo, Alessandra? Guarda, io lo consiglio a tutti quelli che hanno voglia di leggere qualcosa di divertente ma che nello stesso tempo fa pensare, perché i libri di Diego De Silva sono così, appunto c'è sempre una certa dietro l'ironia. Tra l'altro il suo penultimo romanzo si intitolava Terapia di coppia per amanti, che anche qui noti mi pare che stiano facendo un film. Sì, ne stanno facendo un film, so che le riprese erano iniziate nella primavera scorsa, quindi direi che per l'autunno-inverno avremo il film, il film tratto da Terapia di coppia per amanti. Invece stavolta, dopo la terapia di coppia, anche se i personaggi sono completamente diversi, perché in questo caso torna l'avvocato Malinconico, cioè Divorziare con stile, appunto, di Diego De Silva. Bello, bello, ci piace. Ancora consigli, Alessandra? Adesso ti parlo di un noir. Non possiamo. Piacciono, e di questa stagione più che mai. Gli amici del venerdì. Io e te siamo le amiche del sabato, e invece Gli amici del venerdì è il titolo di questo noir introspettivo di Stefano Brusadelli, pubblicato da Mondadori. Rapidamente le coordinate GPS di questo romanzo. Roma, un piovoso venerdì di febbraio. Ci vorrebbe adesso una musichetta. Allora, c'è un anziano che si chiama Gerardo Pavese che viene trovato ucciso nel bagno di casa sua. Lui abita in un quartiere popolare, addirittura sgozzato, insomma. Accidenti. Il particolare non è così secondario. È un uomo tranquillo, solitario, insomma lui, come unico svago nella sua vita di questo pensionato, era quello appunto di cenare il venerdì in trattoria con un gruppo di pensionati come lui. Poco prima di essere ucciso aveva telefonato ad un amico e aveva detto: guarda, vieni subito a casa mia perché ti devo parlare di una cosa importante. Chi è che arriva in quel momento e trova appunto il cadavere? È Ausilio Serafini, che è un ex poliziotto dal carattere cupo, uno deluso dalla vita, anche in questo caso un matrimonio fallito alle spalle. Insomma, oggi parliamo sempre di matrimoni falliti, non so se è un caso. E quindi da ex poliziotto si trova a essere coinvolto nelle indagini. E qua si scoprono molte cose degli anziani, perché chiaramente lui ha una certa età, si trova ad indagare in una cerchia di anziani, di pensionati, e si capisce che spesso tendiamo ad assegnare, come dire, un ruolo agli anziani senza capire che dentro c'è una vita interiore, in alcuni casi veramente sfavillante, come dire, c'è una fame di vita. Molti pensano che appunto dopo una certa età si guardi alla vita come a qualcosa di finito, insomma, rimpianto, nostalgia, e invece in questo noir introspettivo Gli amici del venerdì si scopre, come dire, si scoprono degli anziani con tutta una voglia particolare di vivere. Interessante. Invece quel libro lì tutto rosso che hai lì davanti a te, che alla radio ovviamente stiamo allora, per mostrare, quello lì cos'è? La copertina morbida. Esatto, un pappagallo in copertina. È un pappagallo. Io detesto gli uccelli, purtroppo i pappagalli mi fanno impressione, ma il libro è troppo divertente. Ah, il libro bene, è veramente bene, divertente. Se Gli amici del venerdì, di cui abbiamo parlato adesso, era un noir che aveva anche a che fare col tema della vendetta, in questo Dente per Dente di Francesco Muzzopappa, pubblicato da Fazzi Editore, si parla della vendetta in modo assolutamente comico e divertente. È veramente una commedia nera di grande ironia, appunto, sull'arte della vendetta. Muzzopappa aveva scritto libri come Affari di famiglia e Una posizione scomoda. Che cosa si è inventato in questo romanzo Dente per Dente? Innanzitutto il personaggio, il protagonista Leonardo, lavora al muco. Tu sai cos'è il muco? No. Si è inventato questo mu puntino co, che sarebbe il Museo d'Arte Contemporanea di Varese, quindi è una presa in giro chiaramente di tutti. È originale. E questo Leonardo è fidanzato con una ragazza che si chiama Andrea, però appunto è una donna molto cattolica, rispetta tutti i comandamenti eccetera, non dice parolacce, ovviamente non fa sesso, finché lui non la trova a letto con un altro, insomma un classico. Non lo faceva con lui. Esattamente. E però per vendicarsi questo Leonardo che cosa fa? Decide di infrangere, per vendicarsi di Andrea, di infrangere tutti i comandamenti. Quindi il romanzo è, come dire, una commedia divertente, ironica, eccetera, su questo personaggio che decide di infrangere tutti i comandamenti. Me lo segno tra quelli che voglio leggere. Quello lo conosco! Quello, io vedo un libro di fumetti, di un fumettista che io ho letto perché tu mi hai fatto leggere delle bellissime recensioni cinematografiche su Leo Ortolani. Eh sì, Leo Ortolani. Questa volta ti parlo di Oh, proprio come espressione. Oh. OH, il libro delle meraviglie, pubblicato da Bao Publishing. Leo Ortolani, fumettista famoso, creatore di Ratman. Questa è una ristampa di un libro che in realtà risale inizialmente al 2006, ma le storie che contiene sono addirittura degli anni 90. Sono brevi storie scritte appunto parecchi anni fa, anche se in questo volume ripubblicato ci sono anche alcuni inediti. Lui partiva dall'idea, Leo Ortolani, quando aveva finito di fare il servizio militare, si era laureato, che il mondo, insomma, poteva meravigliarlo in mille modi. Quindi aveva iniziato a scrivere queste brevi storie a fumetto su delle riviste specializzate che aveva chiamato Le meraviglie della natura, prendendo delle categorie di persone, e Le meraviglie della tecnica, prendendo degli oggetti. Mi faccio capire meglio. Per esempio, fra le categorie di persone, lui ironizza, sono delle battute veramente fulminanti, sulla figura del mafioso. Allora c'è questa vignetta e c'è un personaggio che dice: guardate, un mafioso! E l'altro con gli occhiali scuri che risponde: un mafioso? Dove? Lo so, bisogna guardarle Poi fra le categorie l'omosessuale, perché Leo Ortolani decide di ridere, di scherzare, parte dal principio che si possa ridere di tutto e di tutti. Allora c'è questo personaggio che dice: stentavo ancora a crederci, sono omosessuale, l'ho scoperto per caso, guardando la televisione trovai che Berlusconi fosse un uomo affascinante. E da qui poi inizia tutta, insomma. Okay. Quindi non so se avete già letto in passato, ma se non avete letto nulla di Leo Ortolani, vale veramente la pena leggere questo il libro delle meraviglie, pubblicato da Bao Publishing. Ultimo consiglio, Alessandra. Ragazzi, prepariamo i nostri ragazzi letture per l'estate, non le solite letture noiose che danno a volte gli insegnanti a scuola, lo so, non me ne vogliate, ma io preferisco stanno che i ragazzi... Migliorando, secondo stanno me. Stanno migliorando, bisogna far leggere delle cose che appassionano i ragazzi, perché solo così apprendono il piacere della lettura e non il dovere. Io consiglio ai genitori di tutti i ragazzi, dagli 11-12 anni in su, di far leggere un libro che non è nuovissimo, è di alcuni anni fa e ne sono usciti anche degli spin-off, Uomo. Wonder di R.J. Palacio, pubblicato da Giunti. Sono usciti anche gli spin-off, il libro di Julian, il libro di Christopher, il libro di Charlotte. Fanno tutti parte della serie Wonder Story. È la storia di un ragazzino di 10 anni che è nato con una malformazione al viso perché ha una malattia rara e inizia ad andare a scuola. Qui naturalmente subisce atti di bullismo, ma nello stesso tempo, grazie alla sua famiglia, dei genitori amorevoli, al cane che lui adora, riuscirà poi a diventare, insomma, un bambino anche molto popolare nella sua scuola. E questi libri sono veramente, veramente belli per tutti i ragazzini dai 12 anni in su. Wonder, ma anche per esempio il libro di Julian, viene raccontato dalla parte del bullo, quindi è interessante vedere anche che si segue il ragionamento del bullo. E tra l'altro sta diventando un film, Marta. Ah, e quindi insomma leggiamo prima i libri, così siamo preparati, perché poi appunto se il libro è un best seller, chissà il film. Il libro veramente è stato un best seller in tutto il mondo. Il film uscirà il 17 novembre negli Stati Uniti e i primi mesi del 2018 in Italia. E se dovesse avere il successo che ha avuto il libro, sarà sicuramente, insomma, molto, molto, molto visto. Alessandra, allora, noi ci ritroviamo con il cacciatore di libri quando? Sempre il sabato, Marta, alle 6:30 e alle 22, come sempre c'è il podcast, ma ormai in questo periodo estivo stiamo andando in onda anche la domenica alle 16:15. Grazie Alessandra, al prossimo appuntamento nel sabato del villaggio. Baci. La Prima Guerra Mondiale ha avuto la sua meglio gioventù. Erano i ragazzi nati nel 1899, ultima leva ad essere chiamata alle armi. E quest'anno diventano maggiorenni altri ragazzi del 99, nati 100 anni dopo, nel 1999. Diventano grandi non in guerra, ma partono anche loro per studiare all'estero, per conoscere il mondo grazie ai viaggi low cost, per fare volontariato per una gara sportiva. Radio 24 ve li racconta i ragazzi del 99, incontrandoli e facendoli parlare. Di cosa fanno, cosa vorrebbero cambiare, come disegnano il loro futuro. Ritratti di ragazzi straordinariamente normali. I ragazzi del 99 di Maria Piera Ceci. Il sabato alle 14:30 e la domenica alle 9:30 su Radio 24. Il sabato del villaggio. Il sole perfetto, ma lei vuole la luna. Di alzarmi non ho voglia, oggi non combatto con nessuno. A volte è solo questione di fortuna, ma per traslocare due volte in un mese c'è bisogno di tranquillità. La fine dei 20 anni è un po' come essere in ritardo. Non devi sbagliare strada, non farti del male e trovare parcheggio. Io non vedevo l'ora di incontrare questo cantautore e di farvelo conoscere. Allora, per un sacco di tempo ho chiesto al suo ufficio stampa quando me lo porti in radio, perché è stato una grande rivelazione dell'anno scorso, ma il suo successo non si è esaurito nel giro di poco. Lui ha fatto un anno di concerti straordinari. In questi giorni è un po' in giro in Italia per alcune conversazioni, alcuni incontri col pubblico, ma soprattutto quest'anno favoloso culminerà il 25 luglio con un live a Villa Ada a Roma, quindi abbiamo già capito che è un nome che sta diventando veramente molto molto grande nel giro di poco tempo da solista, perché la sua attività di musicista, insomma, va avanti già da un bel po'. Sono molto contenta di dare il benvenuto al Sabato del Villaggio a Motta. Ciao. Ciao. Come va? Io finalmente bene che sei qui. Anch'io finalmente bene. Sono riposato, non sono più in tour, a parte insomma questo concerto, quindi. Hai fatto, quante ne hai fatte in un anno? 100. Forse 101, insomma, però 100 torna meglio. Cioè, che vuol dire che una media di un concerto ogni 3 giorni per tutto l'anno, esatto, è tantissimo, esatto. È tantissimo. Cosa è stato per te quest'anno della fine dei 20 anni? Non che siano finiti per te i 20 anni, Ma in realtà ne ho fatti 30, insomma, esatto, ve l'ho fatta pesare abbastanza. Perché esatto, sono finiti, ho due anni che sono le hai portate avanti due anni, ma perché la fine dei 20 anni è stato questo disco che ha segnato davvero un momento importante. Tenco, il premio del MEI, quindi subito un grande riconoscimento della critica e anche, come si dice, anche del pubblico, perché appunto un sacco di date. Eh sì, insomma, siamo partiti con tanta consapevolezza di aver fatto una cosa bella, però come a volte accade, insomma, non è che ci sia sempre una meritocrazia dietro a tutto quello che succede. In questo caso io penso che sia stato, insomma, che sia andata bene e da una parte che me lo sia meritato dopo tantissimi anni in cui sono stato dietro alle canzoni, alle parole e alle note, insomma. Anni in cui sei stato anche dietro le quinte oppure in mezzo a un gruppo e poi alla fine invece il destino voleva che tu ci mettessi la faccia da solo come sulla copertina del tuo disco. Esatto. Sì, però diciamo, insomma, l'esperienza con Nada, con Giovanni Truppi, come Fonico per i Zen Circus e altre cose mi ha insegnato veramente a rispettare le canzoni degli altri e questo ha portato a far sì che io rispettassi anche le mie, insomma. Sono veramente convinto che le canzoni sono molto più importanti di chi le fa, quindi assolutamente sì. La fine dei 20 anni è un po' come essere in ritardo, non devi sbagliare strada, non farti del male e trovare parcheggio. Vale anche dopo, te lo dico, sì. Adesso che tu li hai appena finiti sti 20 anni, parcheggio non l'ho trovato, però vedo un multipiano lontanissimo ecco, che potrebbe andrà avanti, sì. Questa ricerca, però ti dico che in tanti si sono riconosciuti nelle parole del tuo disco che racconta un preciso stato d'animo al di là dell'anagrafe. Sì, infatti la cosa bellissima è vedere bambini, ma forse la cosa che mi dà più soddisfazione è vedere ai miei concerti gente che 20 anni l'ha passati da, alla fine dei 20 anni l'ha passata da un po', insomma. Ovviamente non penso che il peggior modo per arrivare alle persone sia pensare a come arrivare alle persone, quindi non c'era nessun tipo di voglia di parlare di una generazione, ma c'era tantissima voglia di dire la mia verità e ero in quello stato d'animo lì, insomma. Soprattutto quella canzone che fra l'altro è l'unica che ho scritto a casa dei miei genitori, quindi secondo me un motivo c'è. Parla di un'amicizia e parla di, appunto, di un'età in cui c'è una sorta di adolescenza maschile, perché insomma arriviamo sempre un po' in ritardo noi. Sì, noi sì, è vero. C'era in Italia la voglia di musica nuova, voci nuove, autori di musiche e di testi nuovi, gente che dicesse nuove cose? Ma guarda, non lo so, anche lì l'unica cosa che ho capito, anche grazie al mio amico, maestro e produttore Riccardo Senigalli, ad un certo punto mi ha detto te non devi fare musica bella, te devi fare musica tua. E in questa frase io ci aggiungo che uno non deve pensare a fare musica nuova, ma a tirar fuori gli errori se ci sono e a fare quello che vuole fare. Quindi no, non penso che ci sia... Penso che sia pericoloso pensare a fare qualcosa di nuovo, insomma. Le cose nuove vengono perché uno non è che... Ecco, un po' prima, come il discorso che facevo prima, il peggior modo per arrivare alle persone è pensare a come arrivare alle persone. Quindi il peggior modo per fare musica nuova è pensare a fare musica nuova. Quindi sicuramente ora c'è un'attenzione diversa rispetto a tanti anni fa. E insomma, a me mi è andata bene. In un anno di concerti così fitti hai incontrato un sacco di persone, chissà quante cose ti hanno detto, chissà quante cose hanno letto, visto e ascoltato nelle tue canzoni. Io ho letto tanti messaggi nei social, c'è un messaggio molto bello firmato Gemma che era: album scarno, asciutto come quando si è deciso di non piangere, che secondo me è una sensazione meravigliosa. Cosa ti hanno detto le persone per trasmettere la sensazione di quello che tu hai dato loro tramite questo disco? Beh, una cosa che mi emoziona molto è che ho un tipo di pubblico che, diciamo, non è dedito agli stage diving, ai salti dal palco, ma spesso rimane molto in silenzio. Cioè, se ti butti non sei sicuro di che ti prendano al volo. Ma molto sobrio, e io penso veramente che la sobrietà sia una delle cose che soprattutto in questi anni manca, perché sembra poco interessante. Però c'è un sacco di gente che sta attenta, anche gente più grande di me, come ti dicevo prima, e tanta gente che si commuove. Questa cosa qui veramente mi fa commuovere anche a me. I tuoi pezzi sono stati suonati anche in radio, non è una cosa scontata. Che effetto ti ha fatto? Ti è mai capitato di accendere la radio e di trovarti? Sì. E che effetto fa? Ho detto, questa la conosco, insomma. No, è bellissimo, insomma, anche sicuramente non è un disco facile, riascoltandolo non è assolutamente un disco facile, quindi aveva bisogno di una certa pazienza nell'ascolto. Un'altra cosa che manca, secondo me, è la pazienza. Spesso ce l'ho anche io, poca pazienza quando ascolto le cose, quindi diciamo che secondo me è stato un piccolo miracolo, però mi viene da dire un piccolo miracolo genuino che fa bene ogni tanto, insomma. C'è la famiglia Senigallia, non solo Riccardo, in questo disco. Sì, c'è la compagna Laura Zilli, insomma, che lei suonava nei Tiro Mancino, che ha registrato il basso quasi in tutti i pezzi, è venuta con noi all'inizio in tour, insomma, con loro siamo veramente molto amici, sono molto amico dei figli, insomma, è veramente una bellissima famiglia fatta di persone che veramente amano tantissimo questo lavoro. E Riccardo Senigallia è uno di quelli che hanno accompagnato tanta grande musica di questi, direi, 15 anni, se non di più. Che cosa rappresenta per te essere stato preso sotto braccio da lui? Beh, il momento in cui sono stato preso sotto braccio da Riccardo è stato un momento in cui veramente mi sentivo solo, perché venivo alla fine dell'esperienza con il gruppo, e la fine dell'esperienza con il gruppo è come un po' come quando ti lasci non con una persona ma con due, per cui immaginati te. E la cosa che mi ha fatto veramente bene è stato che lui non voleva assolutamente per forza sapere quello che avevo fatto, come l'avevo fatto, ma ha ascoltato le canzoni nuove e ha detto: io voglio produrti il disco perché queste canzoni qui sono belle, quindi mi ci voglio buttare anch'io. Quindi il fatto che lui abbia azzerato un po' quello che c'era stato prima mi ha rigenerato assolutamente per immaginarmi in un altro modo, che in realtà poi ho capito ora essere molto più mio rispetto a quando avevo 20 anni. In un periodo storico per la musica italiana in cui l'indie, o quello che si definisce o si autodefinisce indie, è diventato mainstream, cioè un certo tipo di gruppi o di cantautori sono quelli che vanno di moda più di tutto, tu cosa pensi del mainstream, cioè di quello che va di moda adesso? Ti piace, ti fa paura diventare di moda? Ma io penso che tutte le persone che iniziano a suonare vogliano arrivare a più pubblico possibile. Laddove non c'è questa cosa qui è, secondo me, solo per paura. Rispetto al discorso dell'indipendenza, cioè, secondo me, da stare attenti a associare. Spesso mi associano a nomi che veramente non c'entrano assolutamente niente con me. Di indipendente ci sono le scelte che continuano a esserci. Se queste scelte sono brutte, il fatto che sia indipendente è forse un aggravante. Quindi, diciamo, ci sono cose che mi piacciono tanto, cose che mi piacciono meno. Ci sono canzoni pop bellissime, canzoni pop che non mi piacciono. Quindi dipende un po' da chi si parla. Non ti chiedo chi non ti piace, ma no, ti chiedo chi ti piace. Riccardo Senigallia te l'ho già detto, vero? Anche a me piace molto. Mi piace, io sono un cane per il modo che c'ha, certo, assolutamente, di lavorare. Mi è piaciuto tantissimo l'ultimo disco di Vasco Brondi, mi è piaciuto l'ultimo disco di Bruno Risas. Insomma, ci sono delle cose che veramente a volte le ascolto e sono convinto che anche i nostalgici, quelli che pensano sempre che adesso non ci sia niente, sono sicuro che anche se lo dicono loro provano più godimento a ascoltare l'ultimo disco di Riccardo Senigallia che un qualsiasi disco di Guccini. Di questa cosa qui sono convintissimo, nonostante io Guccini lo metta fra i più forti in assoluto. 300 date, hai trovato il tempo di scrivere? Cioè ti è, in qualche modo ti sei messo lì, hai buttato giù qualcosa? Sto scrivendo, sto iniziando a lavorare il disco, appunto il motivo per cui non facciamo i concerti quest'estate, a parte il 25 luglio a Villada, è proprio perché ho scelto di ritrovare una tranquillità che è l'unica cosa che mi porta a scrivere. La fine dei vent'anni è stata è stato un momento importante, è stato anche un gran disco che appunto si festeggia ancora con questo live il 25 luglio di Villada a Roma, quindi noi aspettiamo poi Francesco Motta con le cose nuove. Ti lasciamo Anch'io poi lavorare. Francesco Motta con le cose nuove. Ti lasciamo lavorare, ti lasciamo scrivere, perché appunto questa fine dei vent'anni è stata così importante che vediamo come iniziano i 30. Allora, per ora sto veramente benissimo, non mi vergogno a dirlo. Che meraviglia, grazie. Grazie a Motta. Grazie a voi. Il sabato del villaggio. Radio 24 e Touring Club Italiano presentano Passaggio in Italia, alla ricerca dei luoghi da scoprire. Nella sua affascinante biografia su Garibaldi, lo scrittore Dennis Mack Smith descrive così la natura del rapporto stretto e indissolubile di Giuseppe Garibaldi con l'isola di Caprera. E sicuramente l'eroe non aveva torto a definire questo luogo uno dei posti più belli e straordinari del mondo. Situato all'estremità nord-orientale della Sardegna, l'arcipelago della Maddalena, composto da una trentina di isole e isolette, prende il nome da quella principale. Delle sette isole maggiori, quattro, la Maddalena, Caprera, Santo Stefano e Spargi, si trovano vicino alle coste galluresi. Le altre tre, Budelli, Santa Maria, Razzoli, si affacciano invece sulle bocche di Bonifacio. Lo spettacolare paesaggio delle isole e dei fondali marini, la varietà delle forme e dei colori, la biodiversità delle specie ornitologiche ne fanno uno dei più suggestivi arcipelaghi dell'intero bacino del Mediterraneo. E torniamo a viaggiare come sempre a quest'ora al sabato del villaggio. Torniamo a viaggiare con il Touring Club Italiano e con Annarita D'Ambrosio. Ciao Annarita. Ciao, ciao a tutti. Allora, io non mi dimentico delle promesse. Quando qualcuno mi fa una promessa io me lo ricordo. Mi hai detto questa settimana ti porto al mare. Sì, ti porto in un mare fantastico, nel mare della Maddalena. La nostra radioguida, che vi invitiamo ovviamente a scaricare, vi porta in questi paesaggi assolutamente straordinari della Maddalena. Maddalena, Marta, che quest'anno ha un motivo in più per essere visitata, già di per sé è straordinaria, ma ricorrono i 250 anni dalla sua fondazione e quindi ci sono una serie, un calendario fittissimo di iniziative, per cui l'isola è già piena, però lo sarà sempre di più perché le iniziative si concludono a fine anno. Beh, devo dire che allora ci sarà sempre occasione, a parte il fatto che lì, da quelle parti, in Sardegna, il clima è bello tutto l'anno, quindi ci sarà occasione per vedere qualche evento straordinario appunto da qui a fine anno. Spero di averti incuriosito anche su questo calendario fittissimo. Uh-huh. Io ne ho parlato addirittura con due ospiti, ne ho parlato con il sindaco Luca Montella e poi c'è una festa nella festa, abbiamo avuto ospite anche il presidente del Centro Velico Caprera, che compie 50 anni. Calendario di un anno intero, insomma, è un'occasione unica per ricordare 250 anni della nostra fondazione, di questa bella e sempre affascinante signora che, nonostante l'età, fa bella mostra di sé e su tutto il parterre nazionale. No, sindaco, immagino che organizzare tutti questi eventi non sia stato proprio semplicissimo. Vogliamo ricordare quelli a cui lei tiene di più, quelli insomma che meritano un particolare interesse? Sono tutti interessanti, però. Ma intanto si spazia dagli avvenimenti insomma sull'ambiente, alla ricerca del territorio, a quelli per celebrare la musica, a quelli culturali. È un ricco calendario che prevede ogni giorno un avvenimento diverso, giusto per allietare giovani e meno giovani. Si spazia per esempio sulla musica, dai classici alla musica per i ragazzi, insomma quella che va oggi un po' più di moda tra i giovani. Per il resto arte, mostre di pittura, incontri, carnevali estivi, insomma si fa un po' di tutto. Tutto quello che serve per tenere accesa la vita durante l'estate e poi continuare con quegli altri avvenimenti. Si sta anche lavorando a un grande concerto, ma non vorrei dare questa anteprima proprio ora. Ok, io ho curiosato un po' tra gli avvenimenti e ho scoperto che ci sarà una piazza trasformata in una grande spiaggia, è vero? Si sta lavorando anche a quello. In realtà si sta anche organizzando invece una spiaggia che sta diventando una grande piazza. Ah, cioè il contatto. Quindi c'è veramente, veramente tutto, sì. E per tutti. Dal punto di vista recettivo ci saranno tantissimi turisti, forse più del solito, ma voi siete pronti? No, noi siamo pronti, abbiamo già cominciato bene, insomma, cominciamo a vederne i primi già ad aprile, cominciamo con i paesi esteri. Devo dire che la stagione sta andando a gonfie vele, c'è tanta bella gente, c'è tuttora, il tempo ci sta assistendo, siamo ottimisti, insomma, abbiamo gli ultimi due anni, tre anni, abbiamo registrato un trend positivo del 20% ogni anno. Quindi quest'anno, insomma, si potrebbe sfondare anche questo tetto. Sì. Sindaco, resti in collegamento con noi, perché noi abbiamo un altro ospite, perché c'è una festa nella festa, quella che riguarda i 50 anni del Centro Velico Caprera, quindi una festa nella festa. E noi abbiamo il presidente in collegamento, Paolo Martano. Salve, allora, buongiorno. Una festa nella festa? Una festa nella festa, sì. In realtà, diciamo, la festa che ha ricordato il sindaco è una grossa festa, chiaramente, in Maddalena. Noi siamo appena appena lì vicino, perché Maddalena Caprera, e noi siamo a Caprera e abbiamo organizzato questa festa per ricordare i 50 anni dalla nascita del Centro Velico, che è stato fondato dalla Lega Navale, dalla sezione Milano di Lega Navale Italiana e dal Touring Club Italiano. Insomma, una grande festa che raccoglie allievi, istruttori, un ritorno al passato, ma con un occhio invece indirizzato ai prossimi 50. Certo, insomma, quindi è un inizio, diciamo, un nuovo inizio, possiamo dire così? Sì, direi di sì, perché abbiamo rivisto alcune cose, pur mantenendo le nostre tradizioni e quella che è la nostra storia, ovviamente, adesso stiamo guardando a dei progetti più indirizzati al sociale e all'ambiente, e quindi su quelli stiamo appoggiando le basi dei prossimi 50 anni. E quindi vanno da progetti che riguardano appunto la salvaguardia delle spiagge, quindi le zone dove noi abitualmente navighiamo con i nostri corsi, a invece progetti sul sociale, tipo quello che è appena finito la scorsa settimana, dove abbiamo ospitato un certo numero di pazienti oncologici che vengono post, diciamo, momento critico di malattia per venire da noi accompagnati da psicologi e operare un certo tipo di attività in barca a vela, ma anche in mente a vela, chiamiamola così. Un centro per tutti, dunque, non solo per chi fa sport attivo, insomma, ma è un centro velico che sul territorio svolge, insomma, anche un'attività sociale. Sì, sul territorio a livello nazionale ovviamente, con un grosso contributo che ci viene dato proprio invece dalla località. E quindi con il sindaco abbiamo scambi continui e ovviamente le persone di Maddalena partecipano all'attività, anzi sono importantissime per l'attività del Centro Velico ovviamente. Sindaco, dunque il protagonista sarà il mare, ma non solo, di questi festeggiamenti, visto che abbiamo parlato della vela. Intanto saluto Paolo Martano, col quale condividiamo tutti i momenti, insomma, che riguardano la vela che conta. Ricordo che Centro Velico, sì, Luca, non l'ha detto lui, ma è la scuola a vela più famosa d'Italia, non solo, insomma, è una bella vetrina anche per tutta l'Italia e nell'Europa. E questo è un momento di orgoglio anche per la nostra comunità. Sapere che poi noi ne facciamo 250, loro ne fanno 50, e 50 li fa anche il Touring Club. Insomma, questo è un anno un po' importante, un po' eccezionale. Questo mi fa piacere. E per tornare alla domanda, la vela fa parte del nostro patrimonio, insomma, un ambiente come quello dell'arcipelago di La Maddalena, dove ci sono tante isole, le isole più belle del mondo, no? Non lo dice il sindaco. No, infatti è una cosa oggettiva. È una cosa oggettiva, significa anche dare la testimonianza vera e tangibile di rispettare anche l'ambiente. Di questo, insomma, noi non solo ne siamo onorati, ma ne siamo anche molto orgogliosi. Allora, tanti auguri alla Maddalena, grazie al sindaco, tanti auguri al Centro Velico Caprera, grazie al presidente. Grazie. Grazie a voi. Voi. Mi hai convinto, Anna Rita, ho voglia di andare in Sardegna, voglio di andare fino alla Maddalena, anche perché c'è un bel compleanno, ci sono un sacco di eventi e quindi, insomma, ottima destinazione in questa estate caldissima, ma anche più avanti. Beh sì, come abbiamo detto, le feste terminano con la fine dell'anno, quindi insomma avrai modo di visitarla dopo avere ovviamente scaricato la nostra radioguida, che ti fornirà tutti i dettagli per la visita. E ci fa anche un po' sognare di essere già lì. Dove la troviamo? La troviamo sul sito di Radio 24 e sul sito del Touring Club. Grazie a Anna Rita D'Ambrosio, al prossimo sabato!